Investire informati. Eccoci ritrovati allora ad Investire informati. I temi più analizzati del momento sono più o meno gli stessi che animano i nostri commenti da mesi: tassi sempre più bassi, abbiamo le politiche monetarie che rimangono super super accomodanti. Ieri ad animare appunto la cronaca finanziaria sono arrivate le decisioni e le misure sia della Banca Centrale del Giappone ieri mattina presto e poi la Banca Centrale Americana ieri sera, e borse volatili ma in pieno recupero, anzi stabili diciamo dal post-Brexit, quel referendum che ha fatto tremare gli investitori di mezzo mondo, e poi abbiamo ancora il petrolio, l'andamento dei mercati emergenti, che sono ovviamente argomenti che dobbiamo necessariamente tenere sotto osservazione perché ogni tanto appunto danno il là a qualche movimento ancora più volatile appunto dei mercati finanziari. In tutto ciò inseriamo anche un altro elemento importante: settembre, dopo le vacanze, state pensando di fare un check-up di portafoglio? Noi proveremo stamattina, se utile, a suggerirvi anche le domande giuste da rivolgere in questo momento, in questo frangente, al vostro consulente finanziario. Con noi per parlare di tutto questo è tornato il dottor Vittorio Gaudio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con una nuova carica rispetto all'ultima volta in cui ci siamo visti, dottor Gaudio, magari se ce la spiega lei siamo più contenti, così la ribadiamo una volta e non lo facciamo più. Direttore oggi dell'ambito... La carica, che come si usa viene descritta in inglese, pur essendo una banca italiana, Banca Mediolanum, Asset and Wealth Management vuol dire occuparsi sia in generale dell'indicazione di investimento per i clienti, ma anche per i cosiddetti clienti patrimonializzati, rilevanti, che naturalmente sono più sofisticati, almeno spesso succede così, più evoluti, con richieste più complesse. Quindi mettiamo a disposizione anche di questi clienti quella che è know-how di investimento che abbiamo accumulato nel tempo. Esatto, è importante fare un po' di traduzione anche di questi ambiti a beneficio dei nostri ascoltatori. Allora, dottor Gaudio, ci sono notizie di mercato che la stanno particolarmente attraendo in questo momento? Tutto sommato leggiamo continuamente dei copioni già scritti da mesi, per cui non ci sono elementi di rilievo da sottolineare. Beh, in effetti siamo ancora in questo contesto straordinario che stiamo vivendo da tanto tempo, no? Quindi rendimenti obbligazionari, le obbligazioni sono strumento naturale di investimento per tantissimi dei nostri clienti, immagino anche delle persone che stanno ascoltando. Queste persone si trovano ormai da mesi, se non da anni, in questa situazione di rendimenti bassissimi mai visti, e credo che sia una situazione, anche sentendo sia le reazioni di mercato ieri alle decisioni della Fed, anzi delle non decisioni della Fed, credo che sia un contesto che possa durare ancora qualche tempo. Quindi questo imporrà ancora tante domande a questi risparmiatori che erano abituati a investire in titoli di Stato e che oggi si trovano orfani dei rendimenti, e credo che questo sia un tema che poi affronteremo durante la puntata. La trasmissione, assolutamente. Peraltro, oltre alla riunione di ieri mattina molto presto, forse questa è quella che ha sorpreso di più in merito alla nuova strategia che ha comunicato la Banca Centrale del Giappone, la Federal Reserve ieri sera, ma già una decina di giorni fa c'era stata anche l'altra riunione della Banca Centrale Europea. Mario Draghi, insomma, ha già assolto al primo impegno post ferie due settimane fa, con un po' di delusione del mercato, perché invece in quel caso, dottor Gaudio, magari vale la pena un po' rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori, anche in quel caso decisioni non prese, gli operatori appunto finanziari si aspettavano ulteriori iniziative di allentamento monetario. Che cosa si aspettavano esattamente? Veda, io credo che i mercati purtroppo si sono un pochino abituati a questa medicina, adesso qualcuno in maniera un po' più cinica definisce droga, io direi semplicemente medicina, delle banche centrali, ed è chiaro che quando queste banche centrali non continuano a somministrare ulteriori medicine, qui ci leghiamo anche gli argomenti di prima, ecco, io credo che i mercati rimangano delusi, ecco. Però qual è il problema? È che le banche centrali, e credo che Mario Draghi l'abbia anche detto tra le righe, non possono supplire a tutti i compiti. Adesso pensare, come pensavamo un anno o due anni fa, che le banche centrali potessero imporre le loro mani e sistemare tutto, ecco, forse bisogna cambiare un po' rotta. Io credo che si comincia a vedere anche qualche segnale, sia sotto profilo politico che anche banchieri centrali, di un richiamo alla responsabilità anche delle politiche fiscali, ecco. Quindi non si può solo fare politica monetaria, le politiche monetarie non possono risolvere tutti i problemi. È chiaro che non abbiamo la controprova, cioè la controprova sarebbe: se non avessero agito, cosa sarebbe successo in questi anni? Certamente hanno avuto un ruolo positivo, forse ci vuole qualcosa di più. Allora, Francesco, intanto le metto già lì la prima domanda, Sì. poi magari rispondiamo strada facendo. Le chiedo, se chiede al signor Gaudio, mi chiede Francesco, se tassi così bassi, se tassi così bassi c'è il pericolo che vadano, lui dice, ad intaccare il settore azionario. Diciamo che politiche monetarie espansive hanno l'obiettivo anche di sostenere i mercati finanziari, almeno sicuramente hanno un impatto su certi settori, quelli che magari devono indebitarsi molto per investire e Certo, quant'altro. certo. Lui forse utilizzando il termine intaccare chiede se questa politica di monetaria così espansiva possa avere una ripercussione negativa sul mercato azionario. Vogliamo rispondere già subito? Ma io direi la prima risposta che viene certamente tassi bassi e vuol dire anche liquidità abbondante, come è stato in questo periodo. È difficile che facciano male i mercati, e se andiamo a vedere come i mercati più evoluti e maturi hanno reagito a queste politiche, vedasi il mercato americano, certamente il mercato è stato molto spinto da queste politiche. Ci sono invece magari dei settori all'interno del mercato che possono soffrire un pochino di più da tassi bassi, pensiamo al settore bancario ad esempio, dove i margini di interesse delle banche vengono colpiti da questi tassi bassi, tant'è che ad esempio le associazioni bancarie di tanti paesi al mondo stanno spingendo le banche centrali a non esagerare su questa direzione, perché effettivamente loro sono un settore che può essere intaccato, però rappresenta un settore tra tanti. Io direi, diciamo, l'equilibrio generale è un equilibrio positivo, cioè dai tassi bassi certamente il mercato azionario ne beneficia. Assolutamente. Allora, parlavamo prima del ruolo di supplenti che le banche centrali internazionali hanno svolto in questi anni in reazione alla crisi, sostituendosi appunto spesso e volentieri alle autorità politiche. Sicuramente hanno sperimentato molti territori inesplorati e ieri lo ha fatto di nuovo anche la Banca Centrale del Giappone. Allora, magari uno dirà che cosa ci interessa quello che fanno nel Sollevante, eppure è un'iniziativa molto interessante perché in realtà non è detto che non possa essere replicata anche qua. Lo spiega molto bene questa mattina Stefano Carrero sulle Sole 24 Ore. La Banca Centrale del Giappone ha praticamente mantenuto invariata la sua attuale politica monetaria, continua a comprare anch'essa titoli di Stato, praticamente attualmente ne detiene circa il 40% del debito pubblico poco giapponese meno, sì. Complessivo. Però che cosa ha fatto? Ha cambiato il suo obiettivo, il suo target. Non è più l'inflazione, che è quello rigidissimo mantenuto dalla Banca Centrale Europea, ma a questo punto è la curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato. In particolar modo il parametro di riferimento d'ora in avanti sarà il titolo decennale giapponese. Non si permetterà che il rendimento di questa scadenza vada sotto lo zero. Io ho cercato di semplificare al massimo le decisioni prese ieri. Dottor Gaudio, che ne pensa? Che valutazioni avete fatto in merito a questa strategia? E se è importante anche per un piccolo risparmiatore che magari ha una porzione del proprio risparmio investita in quest'area? Ma più che direi l'effetto su quest'area in particolare, bisogna pensare che oggi le banche centrali stanno sperimentando tutte insieme e si sentono molto, si parlano molto, ognuna di loro guarda l'attività dell'altra, quindi è chiaro che stiamo parlando di una banca centrale molto importante come quella giapponese, e quindi gli osservatori stanno cercando di capire se da questa mossa, che è francamente una mossa molto innovativa, nel senso di usare un cosiddetto target di rendimenti, quindi il decennale deve essere intorno allo zero, non deve muoversi da questo livello. Teniamo conto che in questo momento siamo a meno 0,037, quindi meno 0,03 negativo, cioè un decennale quindi negativo. Non deve superare il 0%, quindi un target molto, molto importante. Io sono un po', devo dire, da uomo di mercato mi fanno un po' paura queste manipolazioni, ecco, dei meccanismi di mercato, perché tenete conto che le banche centrali normalmente sono molto brave a, non dico manipolare, però a tenere in considerazione i tassi a breve, cioè quindi i tassi della liquidità a breve. Andare a toccare anche un'area come quella del lungo termine, che è sempre stata invece, diciamo, toccata da movimenti puramente di mercato, cioè di domanda offerta degli operatori. È un mercato molto mosso dalle istituzioni finanziarie, dai fondi istituzionali, fondi pensione, dai trader, dai fondi di investimento. Ecco, pensare che adesso una banca centrale si metta non solo ad operare sulla parte breve della curva, ma anche quella lunga, devo dire, è un esperimento ulteriore che però non si capisce ancora dove possa portare. Ecco, quindi sotto questo aspetto, ripeto, siamo in una situazione eccezionale, però io lascerei anche alle forze di mercato quello di stabilire dove deve andare un tasso a lungo termine, che poi il tasso a lungo termine, pensate che è un tasso molto importante anche per influenzare le decisioni delle imprese, i mutui, quindi è un'area molto molto sensibile. Quindi vediamo dove si va a finire, siamo in sperimentazione continua. Esatto. Qual è il vero tema? Quando uno dice che le banche centrali hanno esaurito tutte le cartucce, mi pare che invece ce ne abbiano ancora. Sì, io devo dire, stiamo arrivando per un pochino, non dico alla frutta, però certamente io credo che bisogna passare anche ad altro. Cioè io non posso pensare che una crescita tutto sommato bassa, moderata come quella mondiale possa solo essere sostenuta da Mario Draghi e pochi altri. Ecco, quindi allora, è intanto, il discorso di prima. Allora, adesso apriremo il capitolo invece Banca Centrale Americana. Anche ieri riunione attesissima del Federal Open Market Committee, anzi ieri è stata la seconda giornata di riunione, ieri è la giornata della decisione da comunicare al mercato. Ne abbiamo parlato a lungo anche nei nostri giornali radio. Adesso io vi racconto cosa succede stamattina in borsa, ma intanto direi anche di fare il super domandone di oggi, così al volo. Paolo, ce l'abbiamo la sigla del nostro Rischia Tutto. Volevo chiedere ai nostri ascoltatori, vediamo se hanno letto i giornali questa mattina. Un piglio professorale. Sì, anche un po' un ghignetto. Un ghignetto, ma è facilissimo. Voglio chiedere se, visto che insomma questa iniziativa è stata presa un anno fa, quindi avranno avuto tutto il tempo di leggerla in questi mesi sui giornali, a che livello sono i tassi di interesse americani in questo momento? È facilissimo, l'ultima volta che sono intervenuti negli Stati Uniti è successo nel dicembre dell'anno scorso, per cui almeno per sbaglio vi sarete imbattuti in questa notizia. Cuore e denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti. Una monetina dietro l'altra, creiamo il nostro gruzzoletto, il nostro patrimonio. Poi l'obiettivo in questi anni così difficili, di alta volatilità sui mercati, di crisi economica, l'obiettivo più difficile da raggiungere è oggi, dottor Gaudio, conservare questo capitale, no? Ancora si continua ad andare dal consulente finanziario chiedendogli ma quanto mi dai, dammi un buon prodotto di investimento per farlo rendere, ma facciamo molta fatica a trasmettere il messaggio che oggi è davvero la fatica più grande anche per voi grandi operatori è quello di conservare il capitale di tutti. Ma certamente, perché come dicevo il tema grande è proprio questo appiattimento di quelli che sono i rendimenti degli investimenti tradizionali dei nostri clienti, dei nostri ascoltatori. Pensate che giusto per intenderci, 10 anni fa, se io costruivo un portafoglio che fosse praticamente tutto in obbligazione, un 90% in obbligazioni, un 10 in azioni, portavo a casa più o meno un rendimento annuo da cedole e dividendi del 4%. Quindi per avere questo bellissimo numero 4%, che ancora oggi capita di sentire clienti che lo chiedano, vorrei, mi accontenterei di un 4%, certo. Figuriamoci. Ecco, pensate che 10 anni fa si poteva arrivare a questa mitica cifra con un portafoglio totalmente obbligazionario, quindi o quasi totalmente obbligazionario, per cui poco volatile. Oggi per avere la stessa cosa bisogna almeno immettere il 50% di azioni. Oppure andare magari su obbligazionarie decisamente più rischiose, ecco, per usare un eufemismo, come può essere il mondo dell'alto rendimento, cosiddetto high yield, piuttosto che l'emergente e così via. E questo passaggio di consapevolezza che bisogna fare, se non c'è questo, poi effettivamente si inizia a investire in cose faticoso. Rischiose e poi ci si pente. La Federal Reserve, la banca centrale americana. Vedo che gli ascoltatori hanno partecipato con grande entusiasmo al nostro quizzettone di oggi, al domandone. Abbiamo chiesto loro, io al momento non ve lo dico, di indicarci quali sono attualmente i tassi di interesse americani, su quale livello sono, per aiutare un po', per dare il fantomatico aiutino. Ricordo che sono in un corridoio, non esiste una percentuale unica, ma sono in un corridoio indicato indicato appunto fra due percentuali. 800 24 00 24, numero verde per rispondere. Questa Federal Reserve, qualcuno l'ha definita, dottor Gaudio, paziente. Grazie alla sua pazienza, in realtà ieri Wall Street è finita in rally, ha avuto un nuovo rialzo, il Nasdaq, l'indice tecnologico, ha espresso un nuovo livello record, e la Fed cosa ha fatto? Ha mantenuto i tassi invariati, come dicevamo, ma soprattutto ha indicato, sempre che l'economia americana resti sulla rotta attuale, che è pronta alla famosa stretta che promette da tutto l'anno, ma probabilmente a questo punto arriverà, anzi con maggior certezza, a dicembre. Che ne dice? Il mercato dopo questi annunci, queste decisioni o non decisioni, dipende come ne vogliamo intendere, di ieri sera sta scontando circa un 60% di probabilità che a dicembre ci sia un rialzo di 25 punti base. Ricordiamoci che, adesso senza rivelare poi il segreto della domanda, saremmo comunque anche con questo rialzo a livelli molto bassi storicamente. Però anche per tornare alla domanda degli ascoltatori prima, si vede dalla reazione ai mercati che i mercati sono molto guidati da queste attese sui tassi. Appena si sente la Fed che è positiva e accomodante sui tassi, i mercati salgono. Appena c'è un governatore, voi sapete che poi all'interno di questo poi team c'è qualcuno, ieri ad esempio ce n'erano tre che erano in disaccordo, che pensavano già di alzare in questa sessione. Quindi appena c'è qualcuno che dice forse dovremmo alzarli un pochino prima del solito, il mercato scende. Certo. Quindi certamente lo dicono un anche molto i manager guidato. Delle grandi case di investimento, lo sostengono, che ormai insomma bisognerebbe riprendere questa famosa normalizzazione dei tassi. Perché è necessaria, dottor Gaudio? Ma io credo che sia necessaria, primo perché l'economia americana alla fine, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro, si è decisamente stabilizzata, ma secondo per un motivo più tattico, per avere anche degli strumenti, delle possibilità di intervento nel caso in cui invece l'economia prima o poi nei prossimi anni rallentasse, perché è chiaro che se io sono già con tassi prossimi a zero, che strumenti ho nel caso arrivasse una crisi? È chiaro che se mi riporto a un livello un pochino più normale, è chiaro che poi ho degli strumenti per poter intervenire, agire e in qualche modo dare fiato all'economia nel caso in cui rallentasse. Gli Stati Uniti peraltro sono immersi in questa affascinante campagna elettorale, si va al voto tra poche settimane, il testa a testa c'è, non si capisce bene come sia. In cui se mi permette si parla di tutto meno che di economia. Esattamente, infatti devo dirle che ieri si parla più di salute. In preparazione decisamente. Della polmonite della signora Clinton, della cartella clinica di Donald Trump, dei loro look, delle loro pettinature, dei loro consorti e quant'altro. Detto questo, sono andata a rispolverarmi e ho fatto fatica a trovare delle notizie appropriate, un po' le ricette economiche con le quali si sono presentati al rispettivo elettorato. In realtà, insomma, l'orientamento di Trump si conosce abbastanza bene, anche dati i suoi interventi pubblici pregressi da manager, imprenditore, protezionismo, penalizzazione per i gruppi che delocalizzano, stop all'immigrazione. Questo lo sappiamo. Nel programma della signora Clinton ci sono i suoi storici cavalli di battaglia, un po' la sanità per esempio garantita per i minori, le aspettative familiari pagate, quindi molto welfare, ma niente di particolarmente incisivo. Questo è un tema importante per chi come voi, ovviamente anche per la gestione dei fondi che ha in casa propria, guarda quel mercato con grande vigore, con grande forza, avrebbe bisogno di maggior chiarezza sulle ricette economiche che guideranno la prossima amministrazione, qualunque delle due sia, americana. Certamente, come le dicevo, sono più le banche centrali e i loro comportamenti nel breve che condizionano i mercati, ma è indubbio che arriviamo vicino a una data molto importante. Mi aspetto anche un pochino di volatilità di breve termine in prossimità di questa data, proprio perché in effetti le ricette economiche non sono chiarissime. Diciamo che da parte della signora Clinton abbiamo, se vogliamo, una prosecuzione di quelle che sono state delle ricette tipiche dell'amministrazione attuale, quindi è una continuità e probabilmente i mercati vedrebbero sotto questo aspetto, non dico meglio, però diciamo è una continuità, quindi non ci sono incertezze particolari. Interessante capire effettivamente se poi invece Trump, quindi il candidato repubblicano, sarà un pochino più chiaro andando vicino alla data delle elezioni su alcuni aspetti che sono poco chiari invece, soprattutto per quanto riguarda il deficit americano, deficit pubblico. Lui ha parlato anche in passato del fatto che il deficit non importa e quindi è sembrato un pochino allegro lavorano su certe prerogative di controllo fiscale, quindi quello sarà abbastanza importante, perché vede il tema dell'immigrazione piuttosto che del muro col Messico, ecco, tutto sommato interessa più nel medio-lungo termine, cioè se effettivamente è un qualche cosa che cambia la tendenza al libero mercato, al libero commercio, alla globalizzazione, ecco, questo potrebbe essere un tema, ma lo si vede, diciamo, più nel medio-lungo termine. Sarebbe interessante invece capire cosa pensa dell'attività della Fed, ad esempio, cosa pensa del deficit statale. Ieri parrebbe che un importante advisor di Trump abbia mosso qualche critica alla politica della Yellen, ad esempio. Lo stesso Trump ha detto che forse la metterebbe in discussione nel caso arrivasse, ed è chiaro che ci fosse un presidente che si mette in, non dico in lotta, ma in contrasto con la banca centrale, beh, questo potrebbe creare incertezza. Accidenti, sarebbe veramente un altro aspetto interessante. Molto interessante. Allora, sì, sono le 11.45 abbondanti, è tempo di andare a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, poi vi risponderemo al domandone, ma intanto, mentre Nicoletta al ritorno dalle ferie ha subito preparato la trasmissione sulla Remise en Forme, io stamattina vorrei chiedere invece ai nostri ascoltatori se hanno fatto anche il check-up finanziario, perché per molti questo è il momento dell'anno più idoneo, più giusto appunto per poterlo fare. Allora, avete già fatto la chiacchierata preautunnale con il vostro consulente finanziario? Quali sono le domande giuste da fargli in questo momento alla luce anche delle notizie economiche che abbiamo raccontato e provato a spiegare? 800 24 0024 per raccontarcelo, vi aspettiamo. Cuore e denari. Il quizzettone di stamattina, allora, io sono stata abbastanza attenta a non dirlo, pur avendo parlato ampiamente della riunione degli ultimi due giorni del cosiddetto braccio operativo della Banca Centrale Americana, il FOMC, il Federal Open Market Committee. Non ho detto a che livello sono attualmente i tassi di interesse americani. Janet Yellen li ha portati su questo livello a dicembre dello scorso anno, forse li ritocca a dicembre. Certo che se andiamo avanti, dottor Gaudio, con un intervento l'anno qua, la normalizzazione... Diventiamo vecchi. Esatto. Tutti quanti con i capelli bianchi. Intanto un ascoltatore ci chiede, rispondendo un po' al tema con cui siamo ripartiti nell'altro blocco, il tema della conservazione del capitale, questo grande obiettivo che in molti con fatica anche raggiungono e soprattutto capiscono con difficoltà che questa è una fase in cui già portare a casa questo risultato è un grande risultato. Un ascoltatore dice: per conservare il capitale non ci vuole un genio, basta aprire conti correnti e conti di deposito sotto i 100.000 euro, e non è un caso che indichi questa soglia così importante, perché questo è un tema che rientra in tutta la discussione sul cosiddetto bail-in. Lei è d'accordo con questa strategia di chi per conservare il capitale non va oltre l'utilizzo del conto di deposito o il conto corrente? Ma le dirò, dipende molto dalle esigenze del risparmiatore. Se l'obiettivo è conservare il capitale di qui a un mese, il risparmiatore ha ragione. Però io credo che vada abbinato al tema della conservazione del capitale anche l'orizzonte temporale. Secondo me, se uno ha un orizzonte temporale giusto per le sue esigenze di 5-10 anni, può investire anche in altre cose, nel senso che è ragionevole pensare, ed è molto probabile, che anche investendo in obbligazioni piuttosto che anche un pizzico di qualcos'altro, vedi azionario piuttosto che alto rendimento, nel giro di 5-7 anni è molto probabile che il capitale iniziale venga conservato. Quindi il concetto conservazione capitale è strettamente legato all'orizzonte che ho nel valutarlo. Quindi se non si fa questa, teniamo conto che il conto di deposito, per carità, sicuramente è una forma sicura sotto i 100.000 in una banca solida, naturalmente facciamo questa premessa, però non si guadagna niente oggi, quindi anche questo è un tema da considerare. Maurizio da Verbania, intanto sentiamo se è pronto con la risposta al nostro domandone di oggi. Maurizio, benvenuto. Buongiorno, grazie, complimenti per l'informazione che fate. Grazie. Quali sono, a che livello sono i tassi di interesse americani? Su che corridoio viaggiano? Perché il corridoio dice così... dovrebbe essere, però insomma, non ne sono sicurissimo, 0,25%, 0,75%. Allora Maurizio, la sua risposta è corretta a metà, per cui ha sbagliato corridoio, ma noi il libro glielo mandiamo lo stesso, ma perché certo. Io e Nicoletta, comunque, per la vostra grazie. Partecipazione siamo sempre molto contenti. Adesso vediamo se i nostri ragazzi ci pescano chi ha risposto bene. Ne vedo tanti in realtà che hanno provato a rispondere e lo hanno fatto correttamente. Adesso risentiamo. Al piccolo risparmiatore, guarda Nicoletta, leggilo tu perché vado. Da qua non lo vedo, sì. perché noi facciamo anche dei piccoli test visivi alla vista, esatto. Qua uno entra ed esce che è rinato. Allora adesso me li metto io. Al piccolo risparmiatore interessa dove investire, su quali settori. La banca suggerisce ancora di comprare obbligazioni in dollari, ma non è tardi, ci scrive Anna Maria. Vittorio Gaudio, ta-tan. Ma allora, l'obbligazione in dollari, in realtà il dollaro viene considerato ormai quel porto che tu devi sempre avere a prescindere da qualunque condizione di mercato, bigliettone, paperone. Certamente, ecco, teniamo conto che oggi qual è il vantaggio nell'investire in dollari? Il fatto che le obbligazioni in dollari esprimono un rendimento che è più elevato di quelle in euro, ed è decisamente più elevato, perché tenete conto che un'obbligazione di 10 anni in dollaro del tesoro americano rende l'1,70 quando BTP rende l'1,20. Per non parlare poi della differenza col Bund, quindi sotto questo aspetto benissimo. E il decennale giapponese di cui abbiamo raccontato siamo prima. A zero, poi sappiamo che certamente, voglio dire, il debitore tesoro americano è un debitore comunque affidabile. L'unico tema è l'andamento del dollaro, quindi è chiaro che il risparmiatore compra bene, un bel rendimento, però deve capire che la volatilità del dollaro incide pesantemente su quello che può essere poi il risultato. Dove andrà il dollaro? Io credo che il dollaro abbia qualche possibilità di apprezzarsi dai livelli attuali, quindi poi non mi esprimo sul numero a cui arriva tra 12 mesi, perché è peggio del domandone che lei fa. No, non facciamo questo. Però certamente credo che ci sia qualche spazio di apprezzamento. Allora, abbiamo pochi minuti di tempo, dottor Gaudio. Lascerei il bilancio post Brexit. Le borse, diciamo, sono quasi tutte leggermente negative. Le europee ha recuperato ampiamente Londra, come nelle attese, per effetto della svalutazione della sterlina, questo lo sappiamo. Però tutto sommato, dal 24 giugno in avanti, i listini europei si stanno provando a riportare in attivo. È un problema accantonato, superato? Brexit, ci faremo i conti l'anno prossimo? Io credo che certamente la gestione politica del Brexit, abbiamo capito che durerà tantissimo, quindi è chiaro che poi i mercati vivono anche di notizie di breve, quindi poi alla fine si stufano di eventi che si protraggono troppo nel tempo. Certamente sarà un tema, però ecco, questo è un ulteriore esempio di come non assoggettare le scelte finanziarie a eventi di breve, perché chi avesse dovuto pianificare il risparmio guardando solo alla Brexit, oggi avrebbe sbagliato, avrebbe venduto tutto, avrebbe liquidato sulla paura, e poi magari il risparmiatore ha bisogno di risparmio nel lungo termine, quindi non facciamoci condizionare da queste notizie più di tanto. Allora, il check-up autunnale di portafoglio, 3 minuti di tempo per farlo insieme a lei, dottor Gaudio. Intanto, la prima regola di come impostarlo in questo momento. Io direi la regola aurea rimane sempre quella di badare alle esigenze. Quindi capire con se stessi e anche col consulente se l'esigenza primaria è quella della conservazione, della stabilità, della cedola, che può essere quello di avere un flusso di cassa periodico, piuttosto che della crescita del lungo termine. Costruire un portafoglio e dando dei pesi a queste esigenze, e poi una volta che abbiamo stabilito questa regola, naturalmente ricorrere più possibile allo strumento gestito. Questo non lo dico per un discorso di categoria, ma semplicemente perché ci sono alcune asset class come l'azionario, l'obbligazionario ad alto rendimento, l'obbligazionario emergente, che è assolutamente tassativo, giusto, corretto e salutare quello di farlo tramite lo strumento fondo comune, diversificato, trasparente, veloce da acquistare. Secondo lei, in base alle notizie che abbiamo raccontato questa mattina, quali possono essere i temi un po' più difficili da digerire per un piccolo risparmiatore e sui quali vale la pena fare una chiacchierata magari un po' più esplicativa con il proprio consulente? Sostanzialmente il binomio rischio-rendimento, quello che dicevo prima. Oggi bisogna mettere in conto che per avere quello che era un livello giusto, considerato giusto, 2%, 3%, dipende dalle esigenze e dalle attese dei risparmiatori, dobbiamo mettere in conto una variabilità delle oscillazioni del portafoglio in breve termine più elevate. Bisogna condividerle, bisogna trovare anche degli strumenti per gestirle bene, ad esempio ricordiamoci dei PAC. Adesso io credo che sia sempre uno strumento assolutamente da consigliare in qualsiasi occasione. Piani di accumulo, quindi piani di accumulo rendono digeribile, mi passi il termine, siamo sempre nel mondo, diciamo, ecco, quindi c'è effettivamente un legame, un intreccio, rendono digeribile anche investimenti che intimamente sono volatili, e li rendono digeribili a tutti, quindi PAC, PAC, PAC. Giuseppe da Latina, benvenuto. La signora Yellen, su che livello ha portato i tassi di interesse negli Stati Uniti a dicembre dello scorso anno? Ma io l'ultima notizia l'ho sentita stamattina proprio da voi, dalla vostra radio, dallo 0,25 allo 0,50. Bravo Giuseppe, questo è il corridoio e quindi si è guadagnato un nostro libro. Tu chi volevi premiare anche Nicoletta? Io volevo premiare anche l'ultimo ascoltatore che ha chiamato all'800240024. Vedo che è Luca da Bari. Ecco, perché non si è perso d'animo, ha cercato, e ha detto ci tengo. Grazie, neanche il dottor Gaudio si è perso d'animo, è tornato a trovarci, tornerà a farlo. Grazie, presto, direttore Asset and Wealth Management di Banca Mediolanum. Ben, grazie, ben ritrovato, buon lavoro. Grazie per i prossimi grazie mesi. Grazie a tutti agli ascoltatori. Noi torniamo domani invece. Sì, io da Roma e tu da Milano. E da qua, però ci saremo sempre insieme. Buona giornata.